Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. A guardare la televisione di oggi, dove sono litigi, grida e personaggi senza talento a farla da padrone, sembrano molto lontani i tempi in cui Ettore Bernabei, storico direttore della TV di Stato, predicava austerità e buon gusto. Ai suoi tempi, ha dichiarato, non avrebbe potuto esserci Vallettopoli, perché al posto di ragazzette improvvisate c'erano le grandi professioniste della rivista, cantanti e attrici di talento, le gemelle Kessler, per esempio, eleganti, femminili, raffinate, che facevano sognare senza svelare troppo. Risse tra politici, soft porn in prima serata, parolacce e bestemmie, microfoni invadenti che usano le lacrime per alzare l'audience. Non bisogna essere bigotti per credere che questo carrozzone ormai sia davvero troppo. La televisione non è la verità! La televisione è un maledetto parco di divertimenti! La televisione è un circo, un carnevale! Una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, domatori di leone e giocatori di calcio! Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere! A denunciare questo quinto potere, che può essere pericolosissimo, è l'omonimo film diretto nel 1976 da Sidney Lumet. E pensare che agli albori del piccolo schermo questa deriva non era neanche lontanamente immaginabile. Sono gli anni 30, quando John Reith, il direttore generale della BBC, la prima rete inglese, teorizza in sole tre parole chiave un intero modo di fare televisione. Informare, educare e intrattenere sono per lui le missioni del mezzo e gli obiettivi che deve sempre avere in mente chi ci lavora. Qualche anno dopo, la triade viene adottata anche in Italia come punto di riferimento. È il 3 gennaio 1954 e iniziano le trasmissioni in Rai. La Rai, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Un solo canale, poche ore di programmazione, due soli colori, il bianco e il nero. Ma un uomo minuto, con il sorriso amichevole e già lì, professionista impeccabile con lo sguardo felice e il microfono pronto. Ha vissuto in America, ma sarà importante per unire l'Italia tanto quanto Mazzini e Garibaldi. Avete indovinato? Il suo nome è Mike Bongiorno. Amici ascoltatori, allegria! Mike Bongiorno. In via Re Mazzini ci giocano dall'antenna, mamma Rai non ti abbandona mai, se non guai chi varai. In un'Italia in gran parte analfabeta e dove si parlavano decine di dialetti, Mike Bongiorno ha contribuito con i suoi programmi a creare una lingua comune. Insieme al servizio militare, durante il quale, per capirsi, si era obbligati a usare l'italiano, bisogna ringraziare proprio lui se oggi un calabrese e un emiliano comunicano nello stesso modo. Il critico Aldo Grasso, temuto per le sue stroncature impietose, nelle sue analisi non manca di sottolinearlo. La grande macchina che ha per la prima volta messo insieme tutto il paese e parlato una lingua unica, anche se è una lingua dei telegiornali, delle telecronache, dei quiz, è stata la televisione. Insomma, da noi si dice che la lingua italiana è nata con Mai Buongiorno, è nata con Lascio Raddoppio. Se lo raccontate ai vostri figli o ai vostri nipoti cresciuti a merendine e telefilm americani, vi guarderanno straniti. Eppure quella del piccolo schermo è una vera e propria rivoluzione, paragonabile all'avvento del rock and roll, all'invenzione di internet, al cambiamento della percezione delle distanze reso possibile dall'aereo. quando è nata la televisione nei singoli paesi, la mobilità era molto scarsa, cioè nel senso che la gente girava poco, viaggiava poco, il treno era il principale strumento di trasporto. Allora, la televisione svolge questo secondo ruolo, che è quello di far conoscere, diciamo, per quel che ci riguarda, l'Italia agli italiani. Gira la ruota! Di tutto questo e di molto altro è artefice lui, Mike Bongiorno, l'indimenticato e indiscusso re della TV. Ha cominciato con i collegamenti via radio dall'America, chiamato da Vittorio Veltroni, padre di Walter, e l'ha fatto per 50 anni negli studi milanesi e romani, all'inizio in Rai, e poi conquistato dall'entusiasmo di Silvio Berlusconi nelle sue neonate reti private. Questo mestiere lo conosco molto bene, lo conosco dalla base, so quali sono tutti i problemi, so come ci si deve comportare, come devi parlare con la gente, i rapporti con i tecnici, e devo dire che la mia grande soddisfazione è che tutti nel nostro campo mi vogliono bene. Buongiorno, lo si chiama semplicemente Mike. Si usa solo il nome come si fa con i grandi: Mina, Totò, Madonna, Corrado. Non ha davvero bisogno di presentazioni. Di lui sappiamo tutto, perché da quando è entrato nelle case degli italiani non è mai uscito. Tortora parlava tutto in punta di forchetta, aveva una grande cultura. Corrado invece era il bonaccione, hai capito? Baudo invece, col suo passo lungo così, dominava il palcoscenico. E io invece timido ero lì, che speravo sempre che mi rinnovassero il contratto per la settimana dopo. Mamma originaria della Torino borghese, papà avvocato rampante che sfonda oltre oceano, cresce fino alla separazione dei suoi in un'America sconvolta dal rovinoso crollo del 29, per poi tornare in Italia. Maturità classica, una passione per il giornalismo continuamente coltivata e poi la fine di tutto, per colpa della Seconda Guerra Mondiale. Mike fa la resistenza e in carcere il suo compagno di cella è un giovanissimo Indro Montanelli. Momenti duri, impossibili da dimenticare, ma che diventano un bagaglio di esperienza da tenere stretto per cominciare l'avventura che lo accompagnerà tutta la vita, quella nel mondo dei quiz. Allora attenzione fabbricatore, tenga il ditino su quel pulsante, mi dica come si chiama la prima donna Fantino in Italia. Si chiama Tiziana Sozzi. Risposta esatta, bravo fabbricatore. La parola quiz è quasi un'onomatopea. Distinto, la colleghiamo tutti a quel mondo di domande, tabelloni, punteggi, cuffie, pulsanti che proprio Mike per primo ci ha fatto conoscere. Ma una leggenda metropolitana vuole che quella parola suono venga dall'Irlanda. Secondo questa ipotesi suggestiva, un impresario teatrale di Dublino, per scommessa, avrebbe dovuto riuscire in 24 ore a introdurre nella parlata degli abitanti della sua città una parola senza senso. L'uomo si sarebbe armato di vernice rossa e durante tutta la notte avrebbe riempito i muri con la scritta «quiz». Il giorno dopo tutti si sarebbero chiesti cosa fosse quel quiz di cui Dublino era tappezzata, cosa volesse dire. Da allora, secondo questa versione, quiz avrebbe assunto il significato di domanda rompicapo. Ma da noi, a partire dal 19 novembre del 1955, quiz voleva semplicemente dire lascia ora doppia. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Lascia ora doppia. Come al solito vi trasmettiamo dal Teatro della Fiera di Milano. Lascia ora doppia è più di un programma televisivo, è un vero e proprio evento che tutte le settimane tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. In un'epoca ancora insospettabile, deriva da un format straniero, francese per la precisione, e a sua volta derivato da una precedente versione americana. Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia ora doppia, il professor Degoli Di Carpi. Stiamo per leggere questa domanda importantissima per il professor Degoli. Mi sente, signor Degoli? Sì. Allora, per favore, silenzio in sala. Questa è la domanda da 2 milioni e 560 mila lire. Quando nel palinsesto, in quella che viene definita dagli storici paleotelevisione o televisione delle origini, ogni serata è dedicata a un genere specifico, a Mike tocca il sabato. Ma il successo di Lascia o raddoppia è così grande e imprevedibile che sono i gestori dei locali pubblici a invocare uno spostamento del programma al giovedì, perché vedono che proprio nella loro serata di maggiore guadagno le persone hanno iniziato a stare in casa a seguire la bravura dei preparatissimi concorrenti, con conseguente assottigliamento degli incassi. E i cinema, intanto, interrompono la loro normale programmazione di film proprio per proiettare Lascia o raddoppia. La televisione italiana ha fatto centro. La rubrica Lascia o raddoppia continua a suscitare l'entusiasmo e l'interesse non solo dei telespettatori, ma del pubblico italiano in genere. Un sabato questo particolarmente importante per l'indovinatissimo spettacolo. Il dottor Giulio Preziosi dovrà decidere se balzare o meno verso il traguardo dei 2,5 milioni. Mike Buongiorno è per ora alle prese con le reclute del concorso a premi. Ma ecco il clou della serata, il commerciante torinese profondissimo cultore delle patrie storiche. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. I concorrenti di Lascia o raddoppia si presentano come esperti di un particolare argomento e giocano individualmente. Nel corso della prima serata devono rispondere obbligatoriamente ad 8 domande, nel tempo massimo di 30 secondi per ciascuna. Il pubblico a casa impara fin da subito a conoscerli, è incuriosito dalle loro personalità a volte eccentriche e sopra le righe, e non aspetta altro che seguirli nella loro avventura verso l'obiettivo finale. Oggi tu hai visto, i quiz danno anche 3 risposte, devi scegliere una delle 3, chiunque può andare a giocare. Questa gente era gente che aveva una sua cultura e che si presentava con la sua materia, e una sola risposta potevano dare, quando sbagliavano erano eliminati. Quindi questi sono i veri concorrenti di un... Il montepremi iniziale è di 2.500 lire. Ogni risposta esatta, il montepremi raddoppia, e con una sbagliata si esce subito di gara. Chi ha la bravura e un po' di fortuna di ritornare la settimana dopo, può decidere se lasciare il gioco e tenersi la somma vinta fino ad allora, o raddoppiare e rischiare sfidando la sorte in una cabina isolata. Un meccanismo semplice e ricco di suspense, che può portare fino a 5 milioni di lire, una somma davvero importante per l'epoca. Era una cifra enorme, forse oggi la gente non si rende conto, ma pensate che allora con 5 milioni si poteva comprare un bel appartamentino o addirittura costruire una bella casetta in campagna. Oltretutto in quel periodo non si pagava la tassa sul premio, per cui molti concorrenti poi furono in grande difficoltà, perché quando decidero di far pagare la tassa qualche anno dopo non avevano la possibilità di pagarla, per cui molti concorrenti dovettero vendere il loro appartamento o la casetta. Fu una cosa non molto bella. Se negli anni recenti si è imputata alla televisione una colpa rispetto all'incomunicabilità all'interno delle famiglie, a volte anche usandola come capro espiatorio per tutti i vizi sociali, un programma come Lascia o raddoppia ha fatto proprio il contrario. Il suo merito più grande, come riconosce lo stesso Aldo Grasso, è stato quello di creare senso di appartenenza, di unire le persone, di divertire, riuscendo contemporaneamente a promuovere la cultura. Il concorrente entra nelle case di tutti, se ne discute al bar, si scommette se riuscirà o no a cavarsela ancora. La sua sfida individuale diventa una sfida collettiva in quella che in modo accademico viene definita una cerimonia mediale. La televisione comincia a essere quella cosa che unisce una nazione dal punto di vista simbolico, perché è quella che raduna in una piazza ideale tutta la popolazione italiana quando succedono dei grandi eventi, e questo è davvero l'aspetto più interessante, linguisticamente più complesso, ed è quello che ancora nei giorni nostri ha una portata molto, molto rilevante. Gianluigi Marianini, Paola Bolognani, Marisa Zocchi, Maria Luisa Garoppo, Adele Gallotti, le gemelle Appiotti, Filiberto Menna, Bruno Dossena, Mario Valdemarin, Aldo Barbadoro, Lando Degoli. Sono questi i grandi personaggi che hanno contribuito con le loro risposte al successo del programma. Non c'è nulla di male, tentare, tentare non nuoce. Lei mi dovrebbe dire il nome di quest'opera. Allora? Verdi ha mai usato il controfagotto, e se sì, mi sa dire qual è il nome di quest'opera? È un'Italia che si affaccia agli anni del boom. E non è un caso se uno dei premi è una Fiat 600. Dopo i terribili anni della guerra, del rigore, dell'austerità, c'è voglia di sorridere, di ricominciare a vivere, di ritrovare un benessere tutto nuovo. Il nozionismo in questo periodo in cui non si è abituati a cercare su Google qualsiasi informazione è ancora considerato un valore. E le domande risultano tanto più interessanti, tanto più sembrano impossibili da sapere. Chi le scrive? Chi le inventa? A chi è venuto in mente di chiedere delucidazioni sull'uso del controfagotto nelle opere di Giuseppe Verdi? Il destino a volte è più curioso di un quiz. L'uomo di cui stiamo parlando è Umberto Eco. Umberto Eco. A Destini Incrociati è il 1955 e siamo in uno studio televisivo di Milano da cui va in onda lo storico quiz Lascia o raddoppia. Mike Bongiorno presenta con piglio deciso e grande umanità. Sembra sempre ingenuo, ma in realtà è molto consapevole e ha sempre sotto controllo la situazione anche quando in apparenza gli sfugge di mano. Un esempio? Le sue celeberrime e numerose gaffe che ormai vengono citate nell'uso quotidiano, alcune vere, altre inventate di sana pianta. Ai ai ai, che peccato, mi è caduta sull'uccello. Una leggenda costruita ad hoc che non sarebbe mai stata permessa nella puritana e rigorosa Rai di una volta. Uno scherzo creato grazie a un montaggio che Mike, generoso e disponibile, ha accettato, facendo buon viso a cattivo gioco. D'altra parte, lui non ha mai subito dei veri e propri attacchi. Professionista di incredibile levatura, non ha mai dovuto difendersi perché tutti, amici e nemici, l'hanno sempre e comunque rispettato. È il re della televisione italiana e anche gli altri conduttori, come Pippo Baudo, ne riconoscono il valore. Poi c'è stata una piccola rivalità che abbiamo anche fomentato e la cosa mi ha fatto molto piacere perché era un orgoglio per me essere non solo paragonato ma addirittura messo in confronto di Mai Buongiorno. Lascia o raddoppia è il suo primo quiz, il primo di una lunga serie. I concorrenti sono preparatissimi e devono rispondere a domande aperte sempre più difficili, che per le cifre in palio tengono il pubblico a casa con il fiato sospeso. A cercare nei meandri della letteratura, del cinema, della lirica e di tutto lo scibile umano, il destino ha messo il semiologo Umberto Eco, che proprio dall'esperienza con Mike darà una svolta alla sua esistenza. Umberto Eco, classe 1932, nasce ad Alessandria e cresce tra feste dell'Unità e Azione Cattolica in una provincia in cui ci si conosce più o meno tutti. A nessuno più di lui si addice la definizione di intellettuale. Scrittore, filosofo, accademico, semiologo, linguista, bibliofilo, ha fatto dello studio la parola chiave della sua vita, fin da quando si iscrive all'Università di Torino, per laurearsi a soli 22 anni con una tesi sul pensiero estetico di Tommaso d'Aquino, già così perfetta da essere subito pubblicata. Io credo, ecco, questo è un tema più interessante, che si desse più rilievo all'opinione del mondo intellettuale in quel periodo là, trascorso addirittura con sindromi da ibris da parte degli intellettuali che presumevano di dover cambiare il mondo. Adesso mi pare che si prendano molto meno in considerazione queste cose, se vediamo il livello intellettuale di coloro che dominano il mondo. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole. Parole. Umberto Eco è un ragazzo molto diverso dai suoi coetanei, che negli anni 50 sognano matrimonio, utilitaria, posto fisso e casa di proprietà. Al primo posto per lui c'è sempre il sapere, la conoscenza. Ha una voglia di imparare e di scrivere che va oltre ogni certezza. Per questo, forse, sogna a Parigi, la città in cui più di qualsiasi altro posto si respira l'arte per la strada, la città che ha fatto proprio lo spirito bohémien degli intellettuali di tutto il mondo. Io sono venuto la prima volta 20 anni a Parigi. Sono stato conquistato e ho detto, pur di vivere a Parigi farei l'impiegato di banca, che per uno studente di filosofia era la cosa più orrenda che si poteva concepire. Ho aspettato 40 anni, non ho fatto l'impiegato di banca e mi sono permesso un piede a terra a Parigi, quindi Parigi continua a restare il luogo dei miei sogni adolescenziali e adulti. Oggi la Francia lo ama, e non solo la Francia. Ovunque, Eco è idolatrato come un divo, forse per una forma di soggezione nei confronti della sua cultura o per un rispetto assoluto di tutto ciò che ha scritto negli anni. Al di là dei suoi 1000 saggi, più o meno tecnici, è noto per il suo primo romanzo, che conta qualcosa come 40 traduzioni, Il nome della rosa, datato 1980. L'opera è ambientata nel Medioevo, con un escamotage viene presentata come il manoscritto di un anziano frate che ha trascritto un'avventura vissuta da novizio, molti decenni addietro, in compagnia del suo maestro presso un monastero benedettino dell'Italia settentrionale. La narrazione, suddivisa in 7 giornate, scandite dai ritmi della vita monastica, vede protagonisti Guglielmo da Baskerville, frate francescano, e il novizio Adso da Melk, il narratore della storia. Grazie al successo travolgente, nel 1986 il libro diventa l'omonimo film diretto da Jean-Jacques Arnaud e interpretato da Sean Connery. Ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni anche là dove ci appaiono scuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Dopo gli studi filosofici e i saggi raffinatissimi, Il nome della rosa narra proprio ciò che è impossibile teorizzare: l'ignoto, il divino, la superstizione. Ma tutto questo, per il giovane Umberto, è ancora molto lontano quando nel 1955, neolaureato, incontra l'uomo del suo destino, Mike Bongiorno. La televisione, con quell'unico canale Rai, ha iniziato da solo un anno a trasmettere i suoi programmi e per i giovani l'aspirazione a entrarci non è ancora quella di oggi. Però, allo stesso tempo, è una sfida. Si tratta di inventarsi un mestiere, di dare una nuova forma a nuovi contenuti e, soprattutto, di creare da zero un linguaggio del tutto nuovo. Le parole, infatti, ricorda Eco, invecchiano. Perché Shakespeare ci sembra sempre buono oggi e invece una traduzione di Shakespeare dell'Ottocento non ci sembra più buono? Perché ogni epoca lo legge secondo la propria interpretazione, quindi secondo il proprio linguaggio. Quindi dopo un po' ci sembra vecchio. Da profondo conoscitore della semiotica, per il giovane di Alessandria, il piccolo schermo rappresenta prima di tutto un'avventura sociologica, un modo per studiare, dall'interno, i meccanismi della comunicazione che si stanno facendo strada in tutto il mondo. E così Eco si iscrive al concorso pubblico per entrare nella RAI, che ha immediatamente bisogno di telecronisti e nuovi funzionari. Lo supera e con lui entrano anche Furio Colombo, Folco Portinari e Gianni Vattimo. I vincitori dei primi concorsi vengono poi etichettati col nome di corsari, in senso stretto perché seguono un corso di formazione diretto da Pier Emilio Gennarini, in senso lato perché con aggressività intellettuale e piglio graffiante riescono presto a innovare l'intero ambiente culturale RAI, ancora molto legato a personalità provenienti dalla vecchia radio. Naturalmente, tra questi non c'è Mike, che invece si porta dietro tutta l'esperienza americana. Perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che voi pensate a Mike Buongiorno quando io ho cominciato Arrivi e Partenze, ma io arrivavo dagli Stati Uniti, dove mi ero già fatto 8-9 anni di radio e di quiz. Ecco, viene scelto per formulare le domande da fare ai concorrenti di Lascia o Raddoppia. Un incarico tutt'altro che semplice, se si pensa alla preparazione settoriale e profondissima di chi partecipa al gioco. Oggi fare una ricerca è velocissimo, bastano un computer e una parola chiave. Ma allora trovare i quiz per sorprendere e catturare il pubblico a casa era un lavoro di ore, uno studio che richiedeva il tempo della preparazione di un esame. Per questo, vista la sua esperienza, Umberto Eco è la persona giusta al posto giusto. È lì un po' per gioco, un po' per lo stesso spirito eclettico e curioso che lo porta ad affacciarsi a tutte le discipline. Ma non sa ancora che quell'esperienza con Mike sarà per lui la porta di accesso alla sua nuova vita. A Destini Incrociati siamo nel 1955 e in uno studio milanese della RAI due uomini che in apparenza non c'entrano nulla l'uno con l'altro stanno lavorando insieme al programma di maggior successo della televisione, Lascia o Raddoppia. Il primo è Mike Buongiorno, familiare, rassicurante, popolare, che con il suo modo di parlare semplice ha unito un paese davanti al piccolo schermo. Il secondo è Umberto Eco, neolaureato, coltissimo, raffinato, ha iniziato a lavorare in TV per studiarne i meccanismi dall'interno. Scrive le domande impossibili da sottoporre ai concorrenti, ma intanto non si perde una mossa di Mike. Qual è la ferrovia più alta della Terra? La Lima Oroya. Risposta esatta. Dietro le quinte, prende appunti sul programma e sulla conduzione. La cosa che più gli interessa è la figura di Mike, che è una figura inesistente prima di lui, perché mai nessuno era stato così famoso e al contempo raggiungibile. Gli attori del cinema sono dei divi, non parlano con la gente come fa Mike. Su tutto questo sta ragionando Eco mentre si imbatte in una giovane conduttrice, Enza Sampò, della quale si innamora subito perdutamente. I due staranno insieme per anni, finché lei, a seguito di Mike come inviata in giro per l'Italia per Campanile Sera, capirà che Umberto non è fatto per reggere i suoi ritmi. L'amore con Enza Sampò porta Eco sulle copertine dei giornali. Dei due la famosa è lei. Lui è un autore accademico abituato a stare dietro le quinte. Ma se Mike, senza farlo apposta, gli porta via la sua innamorata perché la manda in giro per lo stivale, è sempre Mike che nel 1963 lo lancia nel mondo della carta stampata da cui non sarebbe uscito mai più. Lascia o Raddoppia è già finito da qualche anno e Mike, con Enzo Tortora e l'ex fidanzata di Eco, Enza Sampò, conduce Campanile Sera, in cui a sfidarsi sono varie cittadine italiane. Sono le 16.30. Fra pochi istanti scenderanno in campo due comunità italiane alla conquista del titolo di campione di quiz e di giochi televisivi del giovedì sera. Le comunità sono Giussano, in provincia di Milano, e Saronno, in provincia di Varese. Tra pochi istanti, Saronno e Giussano alla ribalta di Campanile Sera. Eco termina l'esperienza con il quiz, esce dalla RAI e si dedica solo alla scrittura. Sono molti gli intellettuali che hanno cominciato a interrogarsi sul potere della televisione, all'estero e anche in Italia. Nei paesi anglosassoni in particolare, lo studio dei mass media diventa un vero e proprio ramo della sociologia. La posizione di tanti, tra cui quella di Pasolini, è una condanna senza scampo. È proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Ma Umberto Eco ha una visione tutta sua e questa visione gli nasce dallo stretto contatto con Mike Bongiorno, con il quale ha lavorato gomito a gomito per anni e che ha visto parlare e muoversi in contemporanea nello studio a fianco a lui e nel monitor. Dopo anni di studio e analisi accurate, scrive il libro che lo proietta direttamente ai vertici dell'elite culturale italiana, La fenomenologia di Mike Bongiorno. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, La fenomenologia di Mike Bongiorno esplode come qualcosa di più di un caso editoriale. Giornali, radio e televisioni si interessano immediatamente a quello scritto intellettuale interamente dedicato a un personaggio popolare come Mike. D'altra parte, la contaminazione tra cultura bassa e cultura alta è ciò che sta succedendo un po' ovunque, a partire dal movimento della pop art. Il saggio pubblicato all'interno di Diario Minimo usa parole dure nei confronti del conduttore italo-americano, erigendolo a manifesto del qualunquismo e prototipo dell'uomo qualunque che arriva a tutti per la sua mediocrità. Il pubblico non si sentirebbe in soggezione proprio per la consapevolezza di essere, rispetto a Mike e alle sue gaffe, superiore. Ne sentiamo un estratto. La TV non offre come ideale in cui medesimarsi Superman, ma l'Everyman. La TV presenta come ideale l'uomo assolutamente medio. Il caso più vistoso lo abbiamo nella figura di Mike Bongiorno e nella storia della sua fortuna. Mike Bongiorno parla un basic Italian. Non è necessario fare alcuno sforzo per capirlo. Qualsiasi spettatore avverte che all'occasione potrebbe essere più profondo di lui. Per Mike, che proprio sulla familiarità ha costruito una carriera, è un duro colpo. Quando legge il testo, istintivamente piange. Ma tutta l'Italia è con lui e soprattutto non è uno sprovveduto. Se Eco decolla, è altrettanto vero che la popolarità di Bongiorno, al contrario di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, cresce ulteriormente. L'analisi di Eco è lucida, brillante, certo provocatoria, ma di grande profondità. E dopo anni, a chi continua a fargli domande sulla fenomenologia, nonostante i suoi grandi successi, incluso il nome della rosa, risponde così. Quelle tre paginette mi sono costate una somma spaventosa di ritagli stampa che ho dovuto interrompere l'abbonamento all'Eco della Stampa, perché ogni volta che si parlava mi arrivava il ritaglio. Continuamente se ne discute, ecco, non la rifarei mai più. La valletta parlante in minigonna di Rischiatutto, Sabina Ciuffini, durante le prove spesso è costretta da Mike a ripassare quelle paginette incriminate per ricordarle che quello era il segreto del loro successo. E di certo Mike ha dimostrato che, a differenza di quello che succede oggi, la TV può dare ben più di 15 minuti di celebrità. 50 anni. Riletta oggi la famosa fenomenologia di Umberto Eco, più che una critica pare un omaggio al suo linguaggio semplice, diretto e immediato. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.